In it for you. In it, your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. In streaming su sherwood.it, Radio Sandonà 102.2, bocchettoni dell'aria per noi. Buonasera Alvise e Favotto, siamo tornati a Music for You. Quale grande fortuna ti accoglie? No, in realtà, buonasera innanzitutto Daniele Terzariol. Dicevo, in realtà la fortuna, beh, può accogliere me come, non lo so, il tronco di una sequoia quando tu stai guidando in aperta campagna, ma più che altro i nostri ascoltatori credo saranno felicissimi, il consueto tripudio intestinale nel sentirci anche questa settimana. Buonasera ascoltatori. Tra l'altro io vorrei dire che c'è un ascoltatore che si lamenta, e non è neanche un ascoltatore di quelli storici tra virgolette. E chi è l'ascoltatore che, sai che si lamenta? No. Se arrivano gli uccellini non si possono fare i nomi. Questo si lamenta e dice: voi parlate troppo. Quindi noi questa sera cercheremo di... Non è la Billo, ciao Billo. No, e non è la Billo, non è lei, e non è la nostra supervisora. Quindi cercheremo di mettere una traccia in più. Ci sforziamo? Sì, pensiamo sì, di farcela? Guarda, noi siamo intimamente convinti che le nostre parole siano solo superflue, e per cui la musica avrà sicuramente molto più da dire rispetto a quello che... i nostri cervelli potranno partorire mai. Ci porti pure le Galapagos, però declinate a Galapagos stasera. Questa sera sì, andremo, abbiamo un ricco e succoso supplì di verdure composto da gruppi notevoli. Tra l'altro abbiamo una linea musicale semi ben definita stasera. Sì, non tranne uno che dopo mi giustificherai tu perché io non sono a Minella, che sono in Germany. Grandi Germany. Ma ci c'è pensi? Tanto da dire. Ovviamente tu. Beh, per il resto siamo... c'è un po' di folk bifolk, perché vuol dire che ci sono due pezzi di folk. No, ce n'è tre in realtà. Ce n'è anche tre, c'è pure il cantante dei Dinosaurs Junior, sì. Arrivato per i cavolacci suoi a fare un disco singolo, ne aveva già fatti, però ne è appena uscito uno nuovo. Chiuderemo la puntata con quello. Abbiamo esatto. Anticipato parte delle canzoni, ti rendi conto? Che cosa che di solito non facciamo. Non vi anticipiamo invece l'ospite di questa sera, l'ospite, o meglio la band ospite, che sarà in collegamento telefonico con noi nel corso della puntata. Ma prima cominciamo con gli Jimmy Eat the World. Che te mangi a pranzo? Il mondo. Beh, Jimmy Eat the World, bisogna dire, una prova di grande coraggio, devo dire, perché i Jimmy Eat the World nascono e crescono e maturano nel momento in cui il mondo conosce, che so, i Blink 182 o che so, i Sum 41. E mi restano lì. Nascono i Jimmy Eat the World con questa ondata di pop punk seconda maniera che appunto ha nei Blink il suo massimo esponente, e restano lì assieme ai Bullying for Soup. Mi ricordo i Bullying for Soup persi del Meteore, pure loro andati... fortunatamente mi viene da dire, ma comunque i Jimmy, e con tanto sgarbo a tutti i fan dei Bullying for Soup, sono tantissimi. Comunque i Jimmy Eat the World partono con questa sonorità qui, quindi pop punk molto orecchiabile, losangeliano in qualche modo. Dopodiché virano ad un certo punto in maniera anche matura e anche coraggiosa, la classica cosa che farebbe girare i Coco, se è permesso i dire Coco, i Coco girano sempre i Coco Chanel al, diciamo, ai fan della prima ondata. Anche c'è, scusa un attimo, c'è anche Coco che è quello lì un po' Spogliarelli, non mi ricordo più la zona, ma noi abbiamo uno spot in radio che gira. Ah sì? Sì, sì, prego, puoi continuare con il Jimmy. Ma molto bene, non sapevo che avessimo questa cosa. Me li becco io la domenica. E praticamente virano e noi vi facciamo sentire una canzone di questa seconda, diciamo, di questa seconda giovinezza dei Jimmy Eat the World. Giovinezza. Andiamocela ad ascoltare? Sì. Get it faster. Thank you. from you. I'm going out. I don't care if you're angry. I'm getting out. Now nothing ever shakes me. I'm going out. I don't care if you're angry. Questi erano i Giovanni si mangia il mondo su Radio Sherwood e su i 102.2 di Radio San Donà. Perché ora, non dimenticarti che siamo passati in solo streaming su Sherwood. Eh sì. Dobbiamo ricordarcelo ogni santa volta. Madonna, ormai iniziamo a essere compulsivi in qualche modo. Allora, i 97.8 non esistono più. No, Sherwood sta solo sul web. C'è un sito internet che ora Terzariol vi ricorda. Che lui se l'è dimenticato. E poi Testè andrà a presentarvi l'ospite della serata. Allora, ben due cose da fare. Sappiate che è già tanto e per il mio cervello. Questo è multitasking. Il mio cervello ora fa manovra. Allora, il sito www.sherwood.it e una è fatta. Bene. L'ospite che si palesa in telefonica, già lo sento sotto che gracchia. Ciao ospite. Ciao ospite, staci bene. È il capitano per questa sera. Sei anche il capitano tutte le altre capitano. Le sere. Capitano. Va bene. Va bene, è pure il capitano di tutte le altre le serie dei The Storylines. Finalmente, ora ci vorrebbe un applauso di quelli campionati dalle tastiere da due soldi, però non ce l'abbiamo. Ciao a tutti. Ciao carissimo Fabrizio, benvenuto. Grazie. Questa è Music for Youth, purtroppo per te, non so se te ne sei reso conto, sempre è una trasmissione radio. Favotto, mi stai chiedendo cuffia? Sì, grazie. Eccoti la cuffia, dovrebbe arrivarti in faccia. Fabrizio, come mi stai? Tutto bene, grazie. Tutto a posto. Parliamo un po' di questo progetto di The Storylines. Dove ci nasci? Perché? Volete morire? Vi suiciderete? Come procedono le cose a livello musicale? Allora, The Storylines è nel 2006 grosso modo ed è uno spin-off, diciamo, di una band che era già esistente nel pordenonese. Si chiamano Emily Smooth, era un gruppo principalmente grunge. poi sono sciolti per dissidi interni al gruppo. Io inizio sono entrato come addetto ai suoni, non propriamente un fonico, più magari effettistica, se vogliamo così chiamarla, e poi ci siamo sviluppati. È diciamo, tumultuoso come sviluppo, in quanto all'inizio eravamo in quattro, poi siamo diventati in tre, perché un ragazzo, Enrico, è stato un anno di Erasmus a Parigi. Dopodiché al suo ritorno abbiamo iniziato a scrivere i pezzi, che erano tutte bozze sui pezzi che sono contenuti in June Leaves, che è l'album che avete anche voi sentito, immagino. Oui, oui. E i pezzi nascono qui tutti da lui, e poi noi, nell'anno in cui lui era assente, per esempio, ci mandava delle bozze registrate nella sua cameretta di Montmartre a Parigi. Bozze di vino, tra l'altro, vorrei sottolineare. Cosa, scusa? Bozze di vino. Sì, a volontà. E quindi noi abbiamo, diciamo, reinterpretato nella nostra chiave, che non era la sua principalmente, era un periodo, diciamo, particolare della sua vita, e quindi l'ha messo in musica e noi l'abbiamo interpretato, però un po', se vuoi, togliendogli l'origine che aveva avuto. E poi quindi abbiamo fatto questa fusione ed è nato il CD. Okay? Questo CD praticamente è quindi frutto di 4 anni quasi di musica assieme. È abbastanza complicato, perché è stato praticamente un parto multigemellare, diciamo. Sì, gli elefanti moltiplicati per 3, praticamente. Sì, anche perché tutto registrato prima che io andassi per un anno in Erasmus a Lisbona, io l'ho mixato a Lisbona, l'ho spedito e l'hanno promosso in 7 persone, che di cui 2 di The Storylines, 4 di Tratt con Charlie, che è un'altra band in cui suonavo io, che ormai si è sciolta praticamente, sempre dalla stessa etichetta che è Megaphone Records, e più un altro ragazzo al violino. Tra l'altro, dopo siamo tornati in 4, adesso si è aggiunto un batterista, siamo andati in 5, come siamo andati in tour a Berlino a aprile, se non sbaglio. Prima di aprile ha fatto 5 date a Berlino, e ora siamo qua di nuovo. E ora state qui pausa, con la Megaphone. Megaphone Records, sì, un'etichetta indipendente nata nel 2010. Parliamo anche di questa cosa qui, perché l'idea di un'etichetta? Allora, l'idea di un'etichetta è perché... Allora, questa è un'idea personale mia, non voglio dare il nome dell'etichetta. Il mercato italiano purtroppo è molto basato a conoscenze o a influenze di grosse etichette. Cioè, nel senso, un'etichetta tendenzialmente indipendente come può essere la Tempesta ora ha un monopolio, diciamo. E purtroppo i locali, se non sei sotto un'etichetta, fanno molta difficoltà a chiamarti a suonare. E anche per recensioni, sinceramente, non abbiamo nessun contatto esterno oltre a noi membri dell'etichetta, non abbiamo nessuno dentro le varie riviste, ed è difficile avere una recensione, avere un pelo di visibilità. Quindi, siccome la scena pordenonese, tanti purtroppo ricordano sempre il Great Complot, che è uno dei primi movimenti indipendenti italiani, che è nato a Pordenone. Sì, è uno dei padri del punk in Italia. Esattamente, il Great Complot, cioè, oltre a essere, io lo ritengo un po' discutibile come movimento, ma questa è un'opinione mia, non ho più niente a che fare, ma è una scena che molto, a Pordenone c'è molta musica, di per sé però non ci sono posti dove farla, i locali sono pochi e la gente se ne sbatte molto, cioè non gliene frega assolutamente niente, preferisce andare a bere l'aperitivo in centro che andare a vedere un concerto, e quindi è complicata, non è assolutamente facile, non è una scena come può essere Milano, come può essere Bologna, dove i posti per suonare ce ne sono. Cioè, la produttività c'è, però manca qualcosa che ti dia una coesione, che dia la possibilità di farlo. E quindi noi abbiamo cercato di, diciamo, dare forma a queste nostre volontà, unendo più persone con, diciamo, ci sono dei grafici, ci sono dei musicisti, ci sono persone più addette verso il marketing o verso comunque relazioni esterne, e abbiamo fondato appunto questa etichetta. E quindi vi occupate anche di fissare le date per i gruppi che stanno con la vostra etichetta? Esatto. Alla fine siamo solamente, cioè, per ora adesso dovrebbero essere dei nuovi ingressi. New entries. Sì, che però sono ancora fino che non è tutto segnato, non riveliamo. E praticamente siamo noi, cioè i membri dell'etichetta sono gli stessi che hanno i gruppi. E quindi un po', diciamo, gestione familiare. Ve la fate, ve la suonate pure pulite quando avete finito, praticamente. Esattamente. La piccola e media impresa italiana che fa grande il nostro nord-est, devo dire. Che fa girare l'economia, come direbbe quello simpatico. Ennio Doris, un cerchio intorno a te. È un buco nero, più che, perché comunque è finanziato da noi stessi. Sono tutti quanti studenti e quindi... Sì, è un buco nero, diciamo. Tra l'altro, ho visto che curate bene l'aspetto grafico. Ho dato un occhio a June Leaves. Se lo ordini in tot, esatto, modalità, non in download gratis da Bandcamp, perché è la cosa che vogliamo sottolineare. Si può scaricare June Leaves per intero. Fatelo, sì. La vostra salute migliorerà. Grazie. E ho visto che la grafica è ben curata nel caso venga ordinato il cosiddetto package, come piace a Favotto. Packagissimo. Esatto, è fatto, è curato da un artista, sono sbagliato, nato a Portogruaro, si chiama Pierpaolo Febbo, che ha curato sia la, diciamo, la parte esterna, che comunque questo sacchettino di feltro, sia le grafiche interne, sono 10 disegni suoi, che sono delle stampe, sono delle riproduzioni dei suoi disegni, che sono inclusi nel, diciamo, sono slegati, non sembra proprio il libretto, perché l'idea carina era di creare, oltre a un CD, e creare un oggetto che rimanga, cioè se non ci fosse il CD sarebbe bello uguale. Che io posso prendere queste immagini e farne di quello che voglio, posso attaccarle sul muro, posso, cioè, sono slegate di per sé, non è un libretto che devo stare a strapparlo io se voglio avere delle immagini separate. La classica cosa che Lele può portarsi in bagno. Sì, assolutamente. Poi appendo tipo una mutanda, una grafica, un calzino, una grafica. L'altro calzino. Sai come sono questi cervelli che si sviluppano poco? No, andiamo un attimo di nuovo sul progetto The Storylines. Parlaci della traccia che presenteremo ora. Ti prego, il titolo, ripetilo tu nel caso io lo sbagli, perché non so come pronunciarlo. SP1. Lo vuoi in inglese? SP1. SP1 sarebbe sperimentale 1. Ah, ecco, no, vedi, perché dovevamo restare italiani. Sì, perché tutti i nostri pezzi, purtroppo non abbiamo mai pubblicato, non so neanche se me lo faremo, quali sono le tracce originali. SP1 non c'entra assolutamente niente. Praticamente era Enrico, che è quel ragazzo appunto che era a Parigi, che suonava la chitarra con l'archetto, ma non alla Sigur Rós, cioè suonato era più ritmato. Era come diventata una batteria, diciamo, tramite l'archetto. Ed era creato quindi un loop di questa chitarra. Noi con questa chitarra poi la usavamo effettata per farci diciamo, la parte ritmica. Quando Enrico era a Parigi, noi suonavamo comunque in tre, eravamo io, Federico ed Antonio, e questa ci faceva la parte ritmica. E poi si è creata questa canzone. Quindi la sperimentale 1 era il principio, che poi non c'è neanche più nella canzone finale. Per chi non vi conosce assolutamente e vi sente nominare questa sera per la prima volta, vuoi spiegarci un po' le vostre coordinate musicali? Se voi vi doveste collocare nel mondo della musica in quattro parole, dove vi mettereste? La domanda è difficilissima, ma riutilizzo il termine che usano spesso nelle recensioni, che è folktronica, che è folk come spirito, però fatto quando possibile con l'elettronica. Bene così, io direi che possiamo andare con la traccia. Licenziamo Fabrizio, è stato bravissimo. Sì, ne sa molto più di noi. Hai, per piacere, sostituiscici. Sappi che gli studi sono aperti. Aveva chiesto se poteva passare per Padova, io gli ho detto noi registriamo alla sede staccata. Sì. Ah, ok, no, perché io sono passato a Sherwood una volta, ma ancora anni fa. Siccome abito là vicino, pensavo fosse là, e quindi ho detto. No, ci hanno mandato al confine. Hai presente quando ti spediscono in Corsica? Dovevamo stare. No, ma perché qualcuno in sede centrale dice che puzziamo. Sì, non ci laviamo. A quanto pare anche il Premier ce l'ha detto. Voi non vi lavate. Sì, e in realtà gli Abre Magic che teniamo costantemente sotto le ascelle non aiutano. Non sembrano dare l'effetto. Per la dose, magari. Esatto. Mettiamoli a quelli zebrati, è presente. Bellissimo. Mango, esteticamente mango. Fabrizio, è il momento di fare la persona seria. Dacci gli indirizzi per recuperare qualcosa di The Storylines. Se hai date, sparale anche quelle. Autopromozione, via. Allora, adesso purtroppo ci fermiamo per un nuovo CD, quindi potenzialmente date non ce n'è. Forse ce n'è qualcuna quest'estate. Io consiglio, hanno creato un'applicazione molto bella che si trova però solo su Facebook, e praticamente bisogna scrivere www.listen senza la E, quindi è listn.to, sarebbe listen2/thestorylines, e lì c'è tutto quanto, c'è biografia, ci sono i contatti, ci sono i video, ci sono le canzoni, ci sono le date. È il metodo più semplice per accedere. Si può accedere anche senza Facebook, se siete già alla pagina, se tutto quanto l'ha riassunto. Adesso comunque stiamo producendo due remix che in teoria usciranno quest'estate, e poi nuovo CD. E i remix per la movida, a Favotto, l'estate si infiamma qua in provincia. Faremo un nuovo pezzone. I The Storylines ci pensano loro. Beh, l'estate. Ci rabaltano il Piave, come si suol dire. Come avevano fatto la SketchUp ai tempi. Un pezzo del genere. Ed è sempre bello lasciarsi su questi paragoni, non ringrazieremo mai. Io spero che voi abbiate anche un balletto. Cioè, non preoccuparti. The Storylines con SP1 o Sperimentale 1 su Music for Youth, Sherwood.it, Radio Sandonà 102.2. SP1 di The Storylines. Potete scaricare tutto l'album June Leaves da Bandcamp. Fabrizio ci ha spiegato che è sto progetto Storylines nell'intervista che è appena andata in telefonica. Siamo entrati su Music for Youth. Fa voto un adagio popolare, non mi ricordo di che cosa, non mi ricordo di dove, né di che paese. Dice che la testa e il cuore non bisogna mai usarli contemporaneamente. No. E infatti della gente ci ha fatto un gruppo. Io mi ricordo anche un fumetto che si trovava sulla rivista Cuore, la rivista, il giornale Cuore. Che era un giornale di satira una volta, poi morto, in cui una coppia diceva davanti a una tavola imbandita Il seguente. Lei chiedeva a lui: Tiziano, preferisci il cuore o la mente? E Tiziano rispondeva: fammi la trippa che è meglio. E poi capisci perché la rivista Cuore è andata fuori dal balcone. Secondo me era una battuta divertentissima, sì. Penso di essere l'unico a pensarlo. Sono bei momenti. Torniamo invece sulla musica, perché ti sto dicendo, caro Favotto, che tutti i nostri buoni propositi... Me la servivi su un piatto d'argento, l'ho rifiutata, sì. No, vabbè, che tutti i nostri buoni propositi di stare svelti e mettere canzoni su canzoni stanno andando a farsi benedire. Come sempre. 28 minuti, ne abbiamo messe due. Molto bene. Questo vuol dire che è tutta in salita da recuperare tantissimo. Allora, questi sono i The Head and the Heart. Più veloce. Quindi la testa e il cuore. E questo è Perso nella mia mente. No, vabbè, molto diciamo bene. Qualcosa. No? Molto bene, vengono da Seattle. Sì, Seattle, famosa per il grunge, in sostanza, ad un certo punto si reinventa. La città proprio si reinventa. Ossia, Seattle genera, non so, i Nirvana, per dire, e credo che basti. A questo punto si passa a questa vena folk che continuerà a portarci avanti per tutta la puntata. E tra dopo, infatti, quello che arriva, io pensavo che Seattle fosse solo famoso per Grey's Anatomy. Anche per il movimento di Seattle, dai, santa patata. Era un bel movimento di bacino. Sì, quando, esatto, un hula hop popolare, diciamo. Dai, mo che stiamo buttando via tempo, Lost in My Mind di The Head and the Earth su RS1022 e lo streaming dove fa voto? Su sharewood.it. Che bravo che te son. Put your dreams away for now, I won't see you for some time. I am lost in my mind, I get lost in my mind. Mama once told me, you're already home when you feel love. I am lost in my mind, I get lost in my mind. Thank you. che è un po' quello che penso anche io alla fine. Mi sa che mi sono un po' perso, Favotto. Non... Tu che mi conosci da un bel 12 anni e passa... No, quanto? Sarà un 15. Mamma mia, che penitenza. No, come stiamo messi? Secondo te ho problemi in cervello? Beh, non mica solo tu, sai. Anche il telefono qui non di prenderti fianco, la paternità che di non tutto. Lo sto sgorlando e non si sente i microfoni, il rumore che fa è più o meno lo stesso della mia testa. Il cocomero tondo tondo che voleva essere il più grande del mondo. Andiamo in velocità alla traccia successiva. Avevamo promesso un viaggio verso le Galapagos, però sono un po' edulcorate e si va alle Galapagos. Sì, nome assolutamente geniale per questi Galapagos che rimangono nella scia tracciata da questa puntata che è partita con i nostri storylines, ossia si va sul folk virato elettronico nel caso di appunto degli storylines, poi virato un po' Iron and Wine nel caso di questi un po' meno conosciuti Ed and Earth, e Galapagos che rimangono in linea con ad esempio i Fleet Foxes, che sentiremo giusto giusto successivamente. C'è da presentare il nuovo singolo in esclusiva mondiale per Sherwood, per Sherwood e Sandonà. Assolutamente, il nuovo singolo Grow Ocean, c'è gente appesa alle radio che sta attendendo questo momento. Soprattutto alla radio, non proprio al nostro mixer. Al nostro mixer, cioè Pitchfork ha detto andatevi ad attaccare al mixer, faranno partire la traccia del nuovo album di Fleet Foxes, noi lo faremo. Sì, infatti in questo studio c'è dell'affollamento di gente attaccata a un mixer, che perché è anche vecchio, fa caldo gente qua che dentro. Che caldo ragazze, che caldo, guarda che se restiamo tra di noi, il ragazzo non lo troviamo mica. Infatti. Never Heard Nothing dei Galapagos. Da Woodstock vengono. Eh sì, da Woodstock. Something. Minchia, quanta allegria. Never enough in the Galapagos. Non si può dire minchia in radio. È la seconda volta che la dici, però, tra me e tre è la seconda che diciamo minchia. Sì. Terza, attenzione. Oh, l'avevamo annunciato, Pitchfork l'aveva detto che sarebbe passata nei nostri studi. Noi la lanciamo per la prima volta, anche se non possiamo, in teoria, ma vabbè. Beh, tanto i blog già lo fanno, quindi perché sì, non farlo noi? Perché poi stiamo in Italia e per cortesia di queste cose non ne voglio più sentire parlare. Grow Ocean di Fleet Foxes sta arrivando. Ebbene sì, popolo, siate felice. Appena dopo questo, io e Terzariol affronteremo quello che sarà il grande argomento di questa puntata e delle prossime, ossia la nostra recensione personale al recente concerto di Zucchero al quale abbiamo assistito. Sì, questa sera non c'è in scaletta Vedo Nero, ma se mi arriva una mail, dico una, radio@radiosandona.it, con scritto Daniele Alvise, vogliamo Vedo Nero di Zucchero in playlist, noi la cacciamo. Certamente. E la cacciamo anche per prima, tra l'altro. Ma sì, ma proprio in apertura di puntata. Allora, sappiate che, e questa è un'altra parola che non si può dire in radio, siamo stati coglionati esattamente da chiunque, comprese le nostre madri. E anche i sediolini che ci stavano di fianco vuoti. Noi siamo andati alle prove generali al concerto di Zucchero per il Chocaback World Tour 2011. Magari se non lo dici ridendo, aiuta. Eh no, perché mi fa sempre ridere la pronuncia. Con tutti sti galli. Una cosa, veramente, ho letto recensioni dappertutto. Il Corriere Veneto si spreca dicendo scenografia fantastica. Oh, Corriere Veneto, ma che cazzo stai a dire? L'hai mai vista una scenografia Corriere Veneto? Era orribile, c'erano dei palloncini a forma di uva, dei galli cedroni che andavano in mare. Ma cosa sta facendo? Ad un certo punto scendono delle campane di carta. Scendono delle campane di carta. E ti ricordo che c'erano anche due specchi. Eh sì. E lui si è presentato seduto su un trono. Tutto questo succede in un palco che è a forma di bauletto e viene aperto da due chiavoni. Chiavoni, non si capisce bene che cosa vuol dire. Grosse chiavi. Sappi che comunque chiavoni è la parola chiave di Grow Ocean, che è il nuovo singolo di Fleet Foxes, che se ti ricordi da due minuti fa stavamo parlando di quello. Sì, sì, il ritornello dice chiavoni, lo sentite a un certo punto. Disse la madama camminando sugli specchi. Adesso scende del silenzio, Vedo Nero. Questa non è in Grow Ocean dei Fleet Foxes, ma era in Vedo Nero di Zucchero. Ricapitolando, sì, siamo stati al concerto di Zucchero, sì, vi stiamo presentando il singolo dei Fleet Foxes, che è del secondo album rilasciato dopo quello che conteneva la traccia che mi piace un sacco, White Winter Hymnal, o vai a pronunciarla come vuoi, licenziato, te lo dico subito, da Sub Pop e Bella Union. Ah, c'è pure un EP nel mezzo, sei contento? No, guarda, mi lascia un po' indifferente, però è comunque un pezzo molto molto garbato. Stiamo perdendo tantissimo tempo, quindi in esclusiva mondiale per queste radio Alvise Favotto presenta il nuovo singolo dei Fleet Foxes. Ladies and gentlemen, Fleet Foxes, Grow Ocean. Dream on. È il momento delle responsabilità per il partito dei responsabili, rappresentato da me e te, Scipoliti Caleari, tutta quella bella gente del quale non si può mai fare meno in Italia. Ci responsabilizziamo e mandiamo in fade out il singolo in anteprima mondiale di Fleet Foxes. La gente ci ucciderà. Tra l'altro, una certa virata anni 30. Ma cosa vuoi? Non ho neanche ascoltato. Stavamo parlando di fattacci nostri. Sì, stavamo parlando di persone che troviamo mentre si corre. E infatti, questa canzone l'ho scelta perché. Ora, voi dovete sapere che il mio co-conduttore. Azzerati. Sì, adesso stiamo per presentare i Germany. Adesso ci penso io. Vai. Allora, voi dovete sapere che il mio co-conduttore qui presente è un po', diciamo, il Linus di Radio Sandonà in qualche modo, ossia Lele corre da che lo conosco. Copertina anche in mano. Copertina? Ah, Linus di Radio DJ, scusa. Sì, mamma, sì. Io stavo a pensare ai Peanuts. Puoi andare in bagno per cortesia, che così presento no, da che me. Poi va a finire che mi distrago. E poi lì Copertina. Vabbè, allora. Però quello è le ore mese. Esatto. Vai avanti. Comunque, praticamente. Ma sempre peggio sto programma. Sì, in effetti. E abbiamo anche detto minchia tre volte con questa fa 4. Allora, io invece non vado a correre normalmente, faccio degli altri sport. Vieni. Fino a domenica mattina scorsa, in cui sono finalmente andato a correre per la prima volta nella mia vita. E io dissi a Favoto, con lui che mi disse, lei le sono andato a correre, sai cosa ti ho risposto io? E che tu non te lo ricordi. No. Minchia, ti ho risposto. Non ci ho fatto caso. Dai, dimmi perché i Germany. Perché sono stati la colonna sonora della mia prima corsa. I Germany sono un duo inglese che fa synth pop e un po' di elettronica. E la fa in, diciamo, in stile running. Tra l'altro, tutto quello che hanno scritto i Germany finora è scaricabile gratuitamente dal sito della loro casa discografica. Quindi scrivete Germany in Google, vi vengono fuori una serie di pagine che vi rimandano a loro, tra cui la pagina MySpace eccetera, e tutto quello che sentirete in questo programma e che Germany hanno prodotto si tira giù gratuitamente. Poi andate a correre, mettetevi la vostra tutina e via. Con Terzariol soprattutto. Ma mi avevi detto, io meno. Sono in due. Sì, sono due. E si chiamano Germany. Eh sì, un Germany e l'altro Germany. Pensa che stavano in 28. Germany alla 28esima. Sono veramente grossi problemi. Portami a casa, take me home. Dei Germany, Music for Youth 102.2 di Radio Sandana. In streaming su sherwood.it. era Germany Germany Take Me Home. A sì. quanto pare erano loro. Sembra di sì. Ben ritrovati su Sherwood.it e sui 102.2 di Radio San Donato. Bravissimo, vedo che hai questa imparato. Questa è Music for Youth. Questi sono Daniele e Dalvise che vi tengono compagnia in questa torrida serata estiva. Che spigliatezza. Copertone proprio. Un abbronzante, ma vi ripara anche dalle zanzare. Basta, falla finita, anche perché abbiamo recuperato tutto il tempo. Renditi conto, meraviglia la meraviglia. Siamo al 50° della ripresa, mancano 10 minuti alla fine e ci mancano due tracce. Risultato ancora solo 0-0. Entra Conco per il Siena. No, Conco poi dove è finito? È andato anche al Siviglia? Era andato al Siviglia, poi al Genova, poi non l'ho più seguito. Se ne sono perso le tracce. E invece adesso entrano i Tapes and Tapes Freak Out. Tu dici chi sono? Ci penso io. Sì, pensaci tu, perché grossi punti di domanda aleggiano sì. sopra i miei capelli. Ma pure qui aleggiano grossissimi punti di domanda e c'ho anche le note davanti. Tapes and Tapes è una band indie rock di Minneapolis. Molto bene. Da dove veniva chi? Non lo so. Brandon e Brenda di Beverly Hills 90210, prima di trasferirsi a Beverly Hills 90210. Guarda, i tuoi riferimenti storici sono sempre altissimi, al pari di Soren Kierkegaard e Schopenhauer. Ma e Brandon e Brenda. E Brandon e Brenda. Allora, a quanto pare questi sai qui, tra l'altro, che Brandon e Brenda sì. avevano un terzo fratello. Vuoi la domanda? Favotto sì, no, non lo sapevo. Chi era il terzo fratello? Minchio. E sei va... Minchiolo, l'ottavo nano. E 7, avanti così. Freak Out invece è solo il terzo album di questi Tapes and Tapes, che adesso in teoria, se fa voto non deve dire minchia un'altra volta, andremo ad ascoltarci. Siamo pure in par condicio elettorale, cioè, è esatto. periodo elettorale, non dobbiamo dire queste cose. Bisogna dire minchia in numero pari. Sì, a quanto pare sì, perché poi noi splittiamo tutto al core con Veneto e ci pensiamo noi e ti diciamo che va tutto bene, anche se in realtà va tutto a sfascio. Tapes and Tapes, Freak Out è il pezzo, stavo per dire Freak Out di Tapes and Tapes, ma sono documentatissimo. Music for Youth, Radio San Donato 102 e 2 e Sherwood.it. Sta minchia! Even in the moment with the light upon your face, I'll look up and show the motion I'll use. I can hear breathing, I feel the space and I, oh I'll be the one you'll never know. You're the wildest man I've ever known. Free from what the other said, on your own. over and wake you in the night. I feel you tremble, I hear you call. I'll be waiting. Up inside the moment, I thought you knew. I see you walking, you're turning blue. Look over at me and hear me say, I'll be holding on for the day. Will you look me in the eye? Will you run from what you see? Will you see me in the light? I hope you do, I hope you stay. Sono soddisfazioni quando riesco a cavare un ragno dal buco con Favotto. Finalmente una traccia che ho messo io che dice: beh, Lele non fa cagare. No, no, è carina, devo proprio dirlo. Domani la scarico. Si può dire scarico in radio, ma comunque domani la scarico. Se hai detto minchia, poi guarda, puoi anche dire scarico. Questo è l'undicesimo, quindi ne serve un dodicesimo. Minchia. 12 basta, però ce le sono giocate. Anche per le puntate successive. È tutta la squadra di calcio con una riserva. Siamo in chiusura di puntata, ce l'abbiamo fatta. Eh sì. Caro ascoltatore che ci chiedevi delle tracce in più, ne abbiamo messe ben 8 con quella che arriverà e chiudiamo questa puntata più o meno da dove abbiamo cominciato. Sì. Chiudiamo con il leader di una grandissima band che erano i Dinosaurs Junior. Sì. Ora da solo. Sì. E si chiama J. Mascis. Questa è la pronuncia giusta. Si chiama Mascis. Se lo cercate in internet. M-H-Ascis. No, Ascis, come piacerebbe a te, ma M-A-S-C-I-S. Sì, i Dinosaur Junior fanno un po' la storia di quello che veniva definito ai tempi emo, ma è molto più rock rispetto all'emo che si sente oggi, assieme ai vari Husker Du e una serie di altri gruppi. I Dinosaur Junior poi ritentano una reunion in tempi recenti che porta anche al parto di un recente disco che però non ha grosso successo. Non ha proseliti. No, mai quanto la nostra trasmissione. Aveva dei singoli che a me non dispiacevano. I proseliti ce li teniamo tutti noi, favore. Quest'uomo ha dei capelli, tantissimi. Molti più dei miei e dei tuoi messi assieme. No, dei miei è impossibile, ma io ce ne ho veramente tanti. Non è che mi sto vantando, dico, sai con chi hai a che fare? Sì. C'ho un bel parrucone. Però anche questo, povera creatura. Cesare Ragazzi andremo in fallimento con esattamente, lui. Esattamente, anche con te però. E a quel punto un minchia concluderà la serata. 13 che porta male. J. Mascis, o Mascis, pronunciatelo come volete, ha licenziato nel marzo 2011 questo nuovo album che si chiama Several Shades of Y per la Sub Pop, etichetta che a noi sta simpatica. La prossima settimana invece l'etichetta la Wichita. Eh sì. Per cui ascoltatevela. Sì, sì, andiamo a presentare noi una puntata come sempre monografica sulle etichette, l'abbiamo già fatto svariate volte, questa la prossima settimana appunto tocca a Wichita. E sappiate che l'abbiamo fatto anche molto bene, per me è un cavallo di battaglia, un motivo di vanto, le puntate sulle etichette, guarda, sono veramente grosse soddisfazioni. Chi ve le fa in radio le puntate sulle etichette? Ma io ero fermo alle monografie, non lo so, Machiavelli, Guicciardini all'università. Lascia stare, fa Gillo Dorfless, quelle cose lì che esatto, anche lui no. Le fa sempre bene. Perché no, che Gillo, scusa, Filippa D'Averio. Perché Filippa ha una testa, noi no. Filippa ha anche un farfallino. Ma veramente di quelli belli. È di qualità, Filippa. Noi invece ci lasciamo. Grazie Rai 5 per portarcelo tutti i giorni nelle nostre case. Qualcosa di valido in televisione, oltre allo schermo nero e gli insetti che friggono sullo schermo stesso. J. Mascis, Favotto, io ti saluto, è stata una bella puntata. Anche per me, e soprattutto è bello vedere la tua coltre di capelli pare nella nebbia causata da tutta questa gente attaccata a questo mixer che è ancora qua per il singolo dei Fleet Foxes. È finito, non so come dire, staccatevi. Potete andare. E andatevene per cortesia, che qui in 2 metri quadri si soffoca. Mia continua a sparare in sottofondo con Paper Planes. È anche finita la traccia, è anche tempo per noi di andare. Favotto, ciao di nuovo. Questa arrivederci, Terzarioli. È Several Shades of Y, DJ Mascis, ex Dinosaurs Junior. With my